Nell'Ottocento vi fu in Toscana una donna che utilizzò la sua voce come uno strumento magico, Beatrice di Fian degli Ontani. Beatrice Bugelli fu la più nota improvvisatrice, cantora e pastora dell'Appennino tosco-emiliano tra 800 e 900. Donna di grande acume e sensibilità, che, seppur analfabeta, si affermò nei prestigiosi salotti letterari aristocratici di Firenze, Pistoia, Bologna e anche in altre piccole località di provincia, grazie alla sua intelligenza creativa e alla sua indomita vena poetica. Beatrice nacque l'11 febbraio 1803 al conio del Melo di Cutigliano, una borgata di case che lascia il passo alle selvagge mirtillaie, ai cespugli di erica e alle argentate carline di montagna. La sua casa si trovava poco distante dal crinale appenninico che divide la Toscana dall'Emilia, una delle più povere e desolate zone del Granducato, allora governato dai Lorena. Sua madre purtroppo morì quando lei era ancora piccola, e così Beatrice dovette seguire il padre che faceva lo scalpellino e trovò là da lavorare in Maremma. Di andare a scuola non se ne parlava neanche. A una donna non serve leggere né scrivere, serve saper badare alla casa e alle pecore e quando sarà il momento accasarsi e fare figli. E così fece anche lei tutto ciò e non si sottrasse a questa legge popolare. Però il suo genio creativo era così impetuoso che trasformò le sue dure condizioni di vita da montanara in un pretesto poetico, tale da poterle cantare agli altri, nei salotti letterari come nelle piazze di paese, suscitando rispetto e partecipazione. La sua sola scuola, come raccontava Beatrice, era il libro aperto. Ma non un libro di carta. Libro aperto è proprio il nome del monte che svetta lungo lo spartiacque principale appenninico. Presenta vasti panorami e paesaggi così suggestivi da ispirare l'anima, mentre la sua vera maestra fu la natura. Beatrice da piccola entrò in contatto con i poeti girovaghi che andavano di borgo in borgo. E poi ascoltava in piazza gli anziani che declamavano poemi cavallereschi in ottava rima e antiche leggende. Lei ascoltava divertita quelle parole così vive e musicali che le sembrava di vederle fare capriole fra la gente lì presente seduta. Anche lei si appassionò a questo modo di parlare con il canto, tanto che iniziò a dilettarsi nel comporre stornelli e rispetti. In Italia, come altrove, la poesia popolare e tradizionale è o recitata, come in giochi, indovinelli, rime infantili, le preghiere, le giaculatorie, oppure cantata. Lo stornello è un tipo di poesia semplice e improvvisata di argomento amoroso o satirico, simile a una filastrocca. Il termine stornello deriverebbe dall'uso di cantare a storno, cioè al rimbalzo della voce da un luogo all'altro. I rispetti invece sono chiamati così perché sono canti in rima alternata di carattere amoroso e quindi rispettoso. L'ottava rima è un componimento poetico improvvisato, formato da una strofa di 8 endecasillabi rimati, di cui i primi 6 a rima alternata e gli ultimi 2 a rima baciata, derivante dalla tradizione epico-cavalleresca. La disputa fra questi poeti, eredi di saltimbanchi e menestrelli, consisteva in una sfida all'ultima rima, rigorosamente improvvisando. Mi vengono in mente a tal proposito le sfide poetiche delle tribù berbere del Marocco, che quando c'erano dispute tra singoli o tra clan, anziché combattere, la risolvevano a gara poetica, improvvisata in mezzo alla gente del clan, e la ragione alla fine veniva data a chi aveva lasciato la controparte senza parole. L'iniziazione di Beatrice come cantora arrivò il giorno del suo matrimonio con Matteo Bernardi, molto più anziano di lei, avvenuto il 5 agosto 1823. Dopo la cerimonia, i novelli sposi partirono dal borgo montano del Melo verso il Pian di Novello, dove Matteo aveva il podere di famiglia. Lungo il cammino, in ogni casa che incontravano, secondo l'usanza della gente di montagna, gli sposi si fermavano per rendere il saluto, cioè regalare confetti, ricevere qualche regalo, cantare e ballare insieme le danze popolari della Monferrina e del Trescone. Qualche sparo di moschetto accompagnava la comitiva per suscitare risate e fare il fracasso scacciadiavoli. Giunsero a Pian di Novello all'ora di pranzo e una lunga tavola imbandita aspettava tutti. Durante il pasto i poeti iniziarono a cantare l'ottava. Beatrice ascoltava e seguiva col suo sguardo vivace gesti e parole dei cantori. A un tratto prese parola e iniziò il suo primo vero canto. Io ho camminato più di 100 miglia, sempre davanti alla sfera del sole. Non ho trovato chi vi rassomiglia, un giovin come voi a paragone. Di voi il paragon non ho trovato, siete più bello del cielo stellato. Di voi non ho trovato paragone, siete più bello di quel bello Adone. Da quel giorno si aprì per lei la vena poetica dell'improvvisazione in rima e diventò la poeta più richiesta dalle piazze ai matrimoni, dalle sagre locali alle fiere. I suoi argomenti di canto saranno una testimonianza della dura vita di una donna di montagna, ma anche la celebrazione della bellezza del creato, che lei ammirava così da vicino quando era nei suoi pascoli o quando guardava il cielo stellato che dove viveva lei sembra che si riesca a toccare stando in punta di piedi. Beatrice farà 8 figli. Suo figlio Angelo la descrive così: tranquilla, allegra, sempre, di sangue vivace, parlava parole tutte di libertà, senza offesa di Dio e del prossimo. Una bugia non la disse mai al mondo. La vita metterà anche duramente alla prova in diversi momenti Beatrice. Uno di questi fu nel 1836 la piena del fiume Lima, che spazzò letteralmente via la sua piccola casa. Quando la mia casa venne a rovinare, così cantò la pastora, mi scaturiva il sangue d'ogni vena. Al momento di quel tremibile danno, io mi restai sommersa in grande affanno. E poi ci fu il momento più brutto di tutta la sua esistenza, quando morì il figlio Beppe a 22 anni. Il figlio Beppe era il suo figlio del cuore, diciamo, perché era il figlio che addirittura aveva ereditato da lei la passione del canto, del canto in ottava, della poesia. E a questo punto a Beatrice si seccò la gola, si fermò il canto per un periodo. Però poi improvvisamente la natura la richiamò a quello che era il suo destino, a quella che era la sua missione della vita, cioè portare tramite il canto le sue emozioni e tradurre le esperienze che viveva per gli altri nelle sue rime, anche rime di dolore. E infatti per il figlio Beppe arrivarono queste parole per lei. Gran passione provai nella mia vita quando la morte prese il mio figliolo. Di questo mondo ne fece partita, io ne restai con gran pena e duolo. Creda pur che sentì pena infinita, morto che fu quello, il sa Dio solo. Quando me lo vidi partire, io quasi come lui credei morire. Il nome di Beatrice si diffuse velocemente. La sua semplicità, unita alla sua sagacia, richiamarono persone anche fuori dal suo territorio, tanto che nella sua umile dimora iniziarono ad avvicendarsi curiosi e letterati, così come intellettuali e studiosi. Tutti per ascoltarla incantati, e lei, semplice e fiera, adattava versi differenti per ogni occasione. Beatrice Anche di fronte a visitatori più illustri, come Niccolò Tomaseo, ad esempio, lei non perse la qualità di essere fedele a se stessa e priva di ogni minima soggezione. Il Tomaseo addirittura ne rimase così colpito che la citò nel suo libro Gita nel Pistoiese. Un altro aneddoto su di lei narra che, quando Firenze era stata fatta capitale d'Italia, Beatrice, che si trovava ospite del professor Giuliani, un giorno vide uscire da Palazzo Pitti in carrozza il re Vittorio Emanuele II. Anche lei, senza esitazione, gli si avvicinò per regalargli un'improvvisazione in ottava, facendolo rimanere così molto stupito e ammirato. Ma l'incontro davvero più significativo per Beatrice fu quello con Francesca Alexander, una giovane scrittrice e pittrice di Boston, trasferita con la famiglia da Firen a Firenze e venuta a villeggiare all'Abetone nei mesi estivi. Francesca conoscerà la poeta e svilupperà verso di lei un affetto profondo, nonostante la differenza della loro età, perché all'epoca Beatrice aveva 60 anni, mentre Francesca circa 20. Ma fra loro l'amicizia sarebbe durata per tutta la vita. L'Alexander scrisse un libro dedicato alla Toscana, Roadside Songs of Tuscany, in cui inserì anche la sua amata Beatrice, descrivendola così. Era solita portare l'abito alla vecchia maniera contadina, nel quale l'ho ritratta. Corsetto scarlatto, fazzoletto celeste, collana a grani e orecchini d'oro. Le lunghe maniche di lino erano increspate al polso. Quando lavorava, soleva spingerla sopra i gomiti. Nelle grandi occasioni metteva un velo bianco ricamato, fazzoletto e grembiale, tutte cose che aveva indosso il giorno che si sposò. Nessuna immagine può dare un'idea della bellezza, perché è impossibile raffigurare la luce nei suoi occhi, che sembrava venire da dentro e non da fuori. Questi abiti lei li indossava puntualmente quando la domenica prendeva una pausa dal duro lavoro della settimana e raggiungeva a piedi i paesi vicini, dove incontrava i poeti viandanti con cui si misurava in una sfida a suon di rime. E lei era così tenace, precisa e appassionata da resistere per ore in singolar tenzone, primeggiando in quest'arte poetica in genere di solo appannaggio maschile. Tramite il suo canto, Beatrice parla d'amore, di politica, della natura, e questa sua spontanea ispirazione supera anche la difficoltà del non saper né leggere né scrivere. Quando cantava in rima, le parole arrivavano fluenti e senza ostacoli, si incanalavano nella sua testa e uscivano dalla sua bocca come melodie. C'erano già prima. E ci sarebbero state dopo. Beatrice non faceva altro che mettere tutte queste parole a suo che mettersi a servizio di tutte queste parole e farsi attraversare e vibrare di passione. Beatrice canterà fino al suo ultimo respiro, avvenuto il 25 maggio 1885, in cui se ne andrà da questo mondo, come dissero i suoi figli, pacata e serena. Dall'altra parte del mondo era nata una donna che avrebbe compreso pienamente e anche spiegato l'arte di Beatrice, se l'avesse conosciuta. Il suo nome era Florence Scovelshin. Florence nacque nel 1871 nel New Jersey. Successivamente si trasferì a Filadelfia per studiare all'Accademia delle Belle Arti, dove conobbe il suo futuro marito, l'artista Everett Sheen. Anche Florence si affermò in campo artistico come una delle migliori illustratrici del suo tempo, tanto che molti libri e riviste dell'epoca contenevano i suoi disegni. Divorziò dal marito nel 1912. Da qui in poi non si dedicò più alle illustrazioni, ma dette ampio respiro alla sua vena di scrittrice, componendo tre libri che possono definirsi tre capolavori dell'arte della comunicazione, del nuovo pensiero e della metafisica. Essi sono Il gioco della vita e come giocarlo, la porta segreta del successo e la tua parola è una bacchetta magica. Il New Thought, nuovo pensiero, è un vasto movimento intellettuale americano, rivolto esclusivamente allo studio pratico dei più importanti problemi dello spirito. Il carattere generale più saliente del New Thought e la sua intima essenza è costituita da un fondamentale ottimismo. Il nuovo pensiero si fonda sulla convinzione che tutta la vita abbia un significato più alto e che noi, tramite le azioni che compiamo, riusciamo ad entrare in sintonia con esso. Abbiamo la capacità di entrare quindi in sintonia con il significato più alto della vita, con l'armonia. Questo dimostra che l'ottimismo del nuovo pensiero non è connotato da una accettazione passiva di ciò che Dio vuole, bensì è per sua natura attivo, cioè considera l'uomo un soggetto attivo che accade alla vita, non al quale la vita accade. Il nuovo pensiero interpreta il mondo come una matrice trasformabile e plasmabile. Unica cosa essenziale da capire è che la trasformazione verso il meglio, quindi verso la pace, l'armonia, la gioia e anche l'abbondanza e il successo che l'essere umano può compiere, deve partire dal suo interno e non dall'esterno. E qual è, secondo il New Thought, lo strumento con cui l'essere umano può raggiungere questo obiettivo? La volontà personale, che, secondo il nuovo pensiero, nasconde poteri finora insospettati. Negli stessi anni in cui Virginia Woolf esortava le studentesse di Cambridge a procurarsi l'indipendenza economica e una stanza tutta per sé, con lo scopo di vivere e fare della scrittura un mestiere, le donne del nuovo pensiero fondavano riviste e pubblicavano saggi. Erano gli stessi anni in cui si gettò una nuova luce sulla mente e sul suo potere, e le donne del nuovo pensiero furono, come i loro colleghi, pioniere nell'interpretare un nuovo modo di pensare e il pensiero stesso, madri di una mente feconda, creatrici di una condizione reale di benessere e scoperta. Le donne del nuovo pensiero volevano scoprire come funziona la mente e come si struttura il pensiero, appunto. Florence venne considerata la pioniera del New Thought. Fu insegnante metafisica e maestra spirituale e fece così la differenza nella sua epoca dall'essere considerata una mistica. Tantissimi autori dopo di lei studieranno i suoi testi e li applicheranno nelle proprie vite approfondendoli. Lei si avvicinò alla realtà del nuovo pensiero intorno ai 50 anni e ne diventò la maestra spirituale e la scrittrice più carismatica. Emmett Fox, illustre esponente del New Thought, scrisse di lei che il modo autentico, colloquiale, informale e il grande senso of humor era il segreto del suo successo con le persone con cui Florence entrava in relazione. Florence riceveva ogni giorno molte persone che trovavano in lei una mentore, una life coach spirituale ante litteram, capace di educare all'arte di vivere o, come diceva lei, al gioco della vita. E fu proprio il suo libro del 1925, Il gioco della vita e come giocarlo, che la consacrò come una delle rappresentanti di spicco del New Thought americano e che avrebbe ispirato successivamente tanta parte della scuola del pensiero positivo appartenente al movimento New Age. Il pensiero positivo ci rimanda anche a un romanzo del 1913, sottovalutato e riduttivamente bollato come letteratura per ragazzi, che però, come scuola delle donne, riteniamo realmente pedagogico. Pollyanna, di Eleanor Porter, in cui la bambina protagonista si imponeva di trovare sempre il lato positivo e di rispondere positivamente ad ogni accadimento della vita, anche a quelli più tristi, col sorriso. Non sappiamo se l'autrice conoscesse effettivamente le tecniche di Florence, ma sicuramente ne fu influenzata a livello sottile. Ritornando ai tre libri di Florence, Il gioco della vita è come giocarlo, la porta segreta del successo, e la tua parola è una bacchetta magica, andiamo a conoscerli un po' più da vicino. Nel gioco della vita, Florence dice al suo lettore che le persone mediamente considerano la vita un campo di battaglia. In realtà, però, la vita non è un campo di battaglia, bensì un gioco che si regge su regole semplici e immutabili. Ricevi quello che dai. Sei un creatore, una creatrice di realtà, non solo attraverso le azioni, ma anche e soprattutto attraverso le tue parole e i tuoi pensieri. La porta segreta del successo, invece, sostiene che per ogni persona può esserci il successo, ma sembra essere nascosto dietro una porta o un muro che deve essere abbattuto. Questo muro è fatto di timore e risentimento. Per cui, facendo un lavoro interiore di ripulitura da questi due inquinatori mentali ed emotivi, possiamo entrare automaticamente in una dimensione in cui le nostre scelte di vita si sposano con un senso generalizzato di appagamento e serenità. Ed essendo più congruenti con noi stessi, saremo capaci di catalizzare anche il successo in ogni ambito desiderato. Né la tua parola è una bacchetta magica, si contiene la più ampia raccolta di affermazioni positive capace di attivare la legge di attrazione, tematica assai importante e diffusa ormai nell'ambiente psicologico e in quello delle neuroscienze. Florence, in questo libro, ha cercato di far capire alle persone quanto le parole che diciamo e pensiamo quotidianamente creino letteralmente la nostra realtà. Questo suo libro è breve, ma denso di potenti affermazioni sui vari argomenti della vita, come l'amore, la felicità, la malattia, tale da farne un vademecum dell'autoaiuto. La tua parola è una bacchetta magica, afferma Florence, e trasmuta un apparente fallimento in un successo. Sono convinta che l'effetto terapeutico di Florence sulle persone non derivasse solo dall'uso sapiente delle affermazioni positive, ma fosse legato soprattutto alla vibrazione attraente della sua voce, tanto che veniva considerata una vera e propria guaritrice di disagi psichici, ma anche fisici. Florence creava un effetto psicomagico nei confronti di chi si rivolgeva a lei per risolvere varie problematiche esistenziali e anche di morte. Ciò accadeva perché interloquiva con le persone da uno spazio mentale di totale fiducia riguardo alla potenzialità umana di danzare insieme al divino, alla sorgente, come diceva lei spesso, per dare vita a una realtà appagante e benefica, degna di essere vissuta. Solo chi ha una totale fiducia nell'esperienza della vita può fare davvero motivatore per gli altri, perché già si sente nella terra promessa che declama e di essa porta la vibrazione nelle proprie parole, che arriva ancor prima del contenuto esatto del messaggio. Non verbalizzate mai la mancanza o la limitazione, poiché dalle vostre parole sarete condannati. Si congiunge con ciò a cui si presta attenzione, e se siete soliti notare il fallimento e i tempi duri, vi congiungerete al fallimento e ai tempi duri. È necessario abituarsi a vivere nella quarta dimensione, il mondo delle meraviglie, il mondo dove non si giudica dalle apparenze. Dovete allenare il vostro occhio interiore a scorgere il successo attraverso il fallimento, la salute attraverso la malattia, l'abbondanza attraverso la limitazione. Io vi darò la terra che il vostro occhio interiore vede. Florence, nei suoi libri, parlava anche del potere dell'intuizione e di come ci si dovesse sintonizzare con essa per cambiare situazioni non piacevoli della vita. Per sintonizzarci con l'intuizione, diceva, occorre lasciare andare pensieri e credenze limitanti, che ci immergono in un dialogo interiore fatto di parole spente e senza potere. Il nostro dialogo interiore deve essere sostenuto da da affermazioni positive e piene di fiducia, da parole che diventano dei magneti della gioia di vivere. La forza di Florence era di avere l'abilità di esporre i suoi insegnamenti metafisici in modo semplice e piacevole e, utilizzando storie reali come esempi, si riusciva a spiegare chiaramente e spiegava alle persone come adottare abitudini positive e pronunciare affermazioni efficaci per essere dei vincitori nella vita. E per vincitori lei intendeva persone appagate e felici. Una persona che conosce il potere della parola, scriveva Florence, diventa molto attenta ai propri discorsi. Le basta guardare la reazione alle proprie parole per sapere che non tornano indietro mai vuote. Attraverso le parole che proferiscono, le persone creano costantemente delle leggi per se stesse. Conoscevo un uomo che diceva: «Perdo sempre una vettura, parte sempre non appena arrivo». Sua figlia diceva: «Prendo sempre una vettura, arriva di sicuro quando arrivo io». Questo accadde per anni. Ciascuno aveva creato una legge separata per sé, una di fallimento e una di successo. Florence lavorò per molti anni e ebbe una vita appagante e serena, e lavorò fino da anziana. Lavorare per lei era in stretta, aveva uno stretto legame il lavoro con il suo essere, il suo modo di essere, e quindi stava vicino alle persone, le motivava e le incoraggiava e creava magie. E questo lo fece fino appunto a che non si addormentò, a mio avviso, serenamente il 17 ottobre del 1940 a Manhattan, a New York. E penso da una parte che Florence sia mancata nel suo modo di guarire la realtà, descrivendola per tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché avrebbe saputo usare parole di guarigione per l'etere, però lì ha voluto lasciare il testimone ad altri. E nel concludere questo racconto su queste due donne, su queste due cantore, ognuna al loro modo, della magia della parola, vorrei riprendere una poesia di Beatrice, che è un canto, che è il suo manifesto alla vita, e è un manifesto di ringraziamento del dono della voce, dell'aver avuto come talento una frequenza di voce capace di creare magie e guarigione. E lo porto, scusate, nel senso se potrò sbagliare, ma insomma lo vorrei cantare in ottava rima come fanno le cantore del mio Appennino. E questo lo dedico anche a Florence, perché anche lei ha usato la voce come strumento, non solo come mezzo. E ecco qua. Non vi meravigliate, o giovinetti, se non sapessi troppo ben cantare. In casa mia non c'è stato maestri, e manca a scuola sonita imparare. Se voi volete intende la mia scuola, su questi poggi all'acqua e alla gragnola. Volete intende voi lo mio imparare, andà per legna a starmene a zappare. Uccellino che canti per il fresco, per il caldo non ti sento mai cantare. Se ti potessi avere nel mio archetto, i tuoi bei canti li vorrei imparare. I tuoi bei canti le tue belle rime, vada la voce mia in cima alle cime. I suoi bei canti e le tue rime belle, vada la voce mia in cima alle stelle.